canto canzoni di viaggi lontani, di amori massacrati, al bar degli amici non si fuma più la canna la sera, la sera. E i ragazzi muoiono di noia. Ricordo un amico, Peter, Peter, senza una lira per andare via. Senza una lira a cui credere. Solo senza una meta. Il suo mondo forse non era qui. Per quello che stava cercando. Ma nella sua anima c'era l'universo. Abbracciato all'amore nel profondo del cuore. Peter non voleva morire. Peter amava la libertà. Peter voleva viaggiare. Ora dorme nei fiori, massacrato, picchiato, deriso, insultato. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,